piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Di baciami. Lo sai, non posso. Dillo, baciami. Baciami. Ti voglio. Ti voglio. Ancora. Ti voglio. Stringimi. Questa è una scena epica di Blade Runner, quello del 1982, non quello attualmente in programmazione, in cui Harrison Ford inizia il suo atto amoroso con la replicante Rachel, che poi in effetti è una fantastica donna. Già allora tutti, vedendo quel film, pensavamo, dico, ma verrà un futuro in cui uomini e replicanti, androidi, esseri costruiti con fattezze umane così verosimiglianti degli uomini da sembrare in carne ed ossa avranno rapporti amorosi? Beh, se lo stanno ponendo un po' questo problema, perché la tecnologia sta facendo passi da gigante. Date un'occhiata su YouTube a quelli che sono i nuovi automi giapponesi. Beh, delle ragazze che fanno impressione, guardavo una poco fa, si muove, una mimica facciale identica a quella di un essere umano. So che è una macchina, capisco che è una macchina, mi sono fatto la domanda, avrei il coraggio di sfiorargli la faccia, di darle uno schiaffo, dico una cosa più banale, più assurda, sapendo che è una macchina, chi se ne importa, non puoi dare un calcio a una macchina, un calcio a una lavatrice, una lavapiatti, un aspirapolvere, lo puoi dare un calcio a quella macchina lì, che si muove come un essere umano, che sembra un essere umano? No, non ci riesci, è impossibile, è una macchina che in sé ha già acquisito una forza emotiva che in qualche maniera ci coinvolge. Beh, i più importanti futurologi hanno già dato delle date. Nel 2050 sarà normale. Gli esseri umani potranno tranquillamente fare l'amore anche con gli esseri umani ricostruiti artificialmente. Ormai la tecnologia e i materiali hanno un livello tale di accuratezza, non vedremo la differenza. Guardate che è proprio così, una giornalista di Vogue e di Vice, Carly Shortino, ha fatto la prova, ha fatto un reportage in cui lei ha fatto l'amore con un bambolo automa che è come un uomo, uguale. Prima scegli gli accessori, gli avviti il pisello che meglio preferisci, scegli il tipo di muscolatura, i capelli e tutto, te lo scegli, te lo organizzi da tastiera. E poi ci ha fatto l'amore, ha detto, sai, in fondo, meglio un bambolo come vuoi te piuttosto che un uomo che alla fine ti dà un sacco di problemi. Voi pensate questa cosa non potrà mai accadere? È impossibile? Beh, non è proprio così impossibile. Diciamo la verità, dovete cominciare a pensare che nell'ordine di idee future ci sarà anche quello, che l'umanità avrà a disposizione degli umani apparenti che in realtà non saranno umani, non saranno nati da un accoppiamento tra un uomo e una donna, ma saranno costruiti in un laboratorio. Una bambola da compagnia, sembianze da pin-up e cervello di primo ordine. Una donna che parla e intrattiene piacevolmente gli interlocutori. Samantha è dotata di intelligenza artificiale e fattezze umane. L'ha creata uno spagnolo e ha un valore di 3.000 sterline. Una bambola che ha subito l'interesse morboso del pubblico dell'Arts Electronica Festival di Linz. Il suo creatore l'ha riportata a casa in condizioni pietose. La bambola robot ha attirato l'attenzione dei visitatori molto più di quanto Sergi Santos potesse prevedere. Attenzioni morbose e poco gradite, due dita rotte, segni e tagli... Guardate che a Barcellona, a parte i problemi con l'autonomia che hanno con il governo centrale, hanno aperto un bordello con Real Doll, cioè la generazione più avanzata delle bambole gonfiabili. Beh, fanno affari d'oro, sempre pieni di clienti, anzi devono stare attenti perché a un certo punto si sono resi conto che non sanno come arginare il fatto che gli esseri umani danno sfogo a fantasie anche di tipo sadico, violento, nei confronti delle bambole, cominciano a porsi il problema. Ma se lo fanno con le bambole e con gli automi, poi questi lo faranno anche nella vita reale con gli esseri umani, oppure è il fatto di avere davanti l'apoteosi del partner inerte che ci porta comunque a fare quello che mai avremmo pensato di fare con un essere umano, voi direte ci parli di queste stupidaggini. No, secondo me lo trovo fondamentale. Guardate che di fronte oggi tutti parlano del Rosatellum, della legge elettorale, che è il problema, sembra più colpire gli italiani. Faccio un esempio paradossale. Se questa mattina aprissero improvvisamente i luoghi di incontro con gli amanti robotici, ma gli italiani secondo voi continuerebbero a pensare al Rosatellum, continuerebbero a pensare alla legge elettorale, si porrebbero i problemi della politica? Sarebbe la grande, immensa maniera per gestire le popolazioni. Mettere a disposizione di tutti un partner perfetto, che tu alla fine dimentichi che non è umano. Ma guardate che siamo arrivati a dei punti di così paradossale simbiosi con gli animali. Ieri si è visto un servizio di Lucci in televisione in cui c'era un negozio e facevano le feste di compleanno per cagnolini, una signora portava dei suoi cucciolotti alla spada, li teneva a letto con sé. Insomma, attribuiamo degli esseri animali, con grande dignità sicuramente, dei sentimenti. Quindi siamo abituati noi ormai a cercare emotività laddove non c'è, ce la costruiamo noi. E quindi la costruiamo anche con le macchine. Beh, vi faccio una sfida questa mattina, vi pongo un problema. Un sondaggio di YouGov ha pensato di tastare il polso agli americani se è vero che sono pronti in realtà. Beh, alle domande se farebbero sesso con un robot o considererebbero un tradimento se il tuo partner si sollazzasse con un robot, beh, il 49% degli americani ha detto che non ha nessun problema. Cioè la metà degli americani dice che noi siamo pronti a accoppiarci con un robot. È una cosa che faremo normalmente. E una parte rilevante pure detto che non trovano una gelosia, quello che non siamo ancora riusciti a realizzare lucidamente, cioè la coppia aperta, la totale spersonalizzazione, il senso del possesso che non c'è più tra esseri umani. Con il robot non avrebbe nessun problema. Caro, scusa, questa sera esco con il robot, mi faccio spupazzare un po'. Ah, non c'è nessun problema, figurati, aspetta, apro l'armadio, prendo anche la mia. Ci sentiamo stasera? No, ma anche domani, non ti preoccupare. Beh, porrò oggi al pubblico di Melog in anteprima la versione italiana dello stesso sondaggio e voglio vedere se anche voi siete pronti ad accoppiarvi con dei robot. Se tu avessi a disposizione un robot, dai movimenti e dalle fattezze del tutto simili a quelle umane, con un corpo maschile o femminile perfetto, modellato secondo i canoni di bellezza più affermati, saresti disposto ad avere con lui un rapporto sessuale? Se ad avere un rapporto sessuale con un robot fosse il tuo partner, lo considereresti un tradimento? 800240024, domanda secca. Se aveste a disposizione un amante eccezionale, di cui obiettivamente non vedreste la differenza, guardate, non si vede la differenza, uguale, lo toccate come un essere umano, vi guarda, impara velocemente a conoscervi, impara i vostri desideri, la vostra emotività, risponde in base a quelle che sono le vostre richieste. Beh, lo usereste come amante? Vi sentireste cornuti, dispiaciuti, feriti nell'orgoglio se il vostro partner si accoppiasse con un robot? 800240024, Corrado, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno ascoltatore. Risponda al sondaggio prima di tutto. Ci sto pensando, non lo so, non saprei, nel senso che... Cioè ce l'avesse davanti, mi dicono guarda, provare. Gianluca, io ho avuto davanti il prototipo di Face. Ah, bene. Ecco. Che impressione ti ha fatto? Plastica. Eh beh, perché ancora non era, diciamo, il livello più avanzato. Quelli nuovi sembra che siano inconfondibili proprio dagli esseri umani. Allora, io avevo visto ovviamente la bambola gonfiabile, quella col boccone. Ma sì, ma stai parlando della preistoria. Esatto, quello con l'eterno saldatore, e ho detto voi siete scemi, completamente. Dopodiché a sta fiera, a marzo, ho visto questo Face, che è un androide antropomorfo in grado di... Dunque l'acronimo è Facial Automation for Conveying Emotion, ed è in grado di interagire con le emozioni umane. È meraviglioso, è fantastico, inquietante, seduto lì in un angolino, con sta pelle un po', ancora un po' gommosa, in movimenti per così dire idropneumatici, però è impressionante. Non so se ci farei sesso, onestamente. Allora ti faccio un'altra domanda, meno invasiva. Dimmi. La stessa impressione che ho avuto io mezz'ora fa guardando i filmati su YouTube. Però ti rendi conto che è qualcosa di più di una macchina. Tu un calcio a un aspirapolvere non funziona, lo dai. Un calcio a Face lo daresti? Boh, penso di sì. Vabbè. Non credo che mi farei parte. Io ho provato uno scrupolo a considerarlo una macchina, sinceramente. Per carità, poi un calcio non glielo dai perché è una cosa fatta bene, è una cosa costosissima, o meglio, potrebbe essere. Ne parlavo con questo ingegnere, giovane ingegnere. Diventa, fermati un attimo, perché devo stringere sul sondaggio. Resta un attimo in ascolto. Francesco, sentiamo Francesco. Sì, buongiorno. Faccio a lei la domanda, però rispondete o sì o no. Lo farebbe se avesse davanti un essere totalmente inconfondibile tra un essere umano e una macchina. La farebbe questa esperienza? Lo considererebbe qualcosa di possibile? Ma io lo reputo ampiamente possibile, perché se si arriva al punto di vedere una prostituta che è una povera schiava... Ma non fa... Scusi, no, fermo un attimo. Francesco, non me ne importa nulla. Non è un'indagine sociologica sulla prostituzione. Voglio sapere, lei con una macchina si accoppierebbe? Certo. Sarebbe geloso se sua moglie si accoppiasse con una macchina? Ma guardi, un vibratore non è niente che un robot, quindi se lo uso io, lo uso mia moglie, alla fine è sempre un agente perfetto, esterno. Perfetto. Corrisponde in linea con quelle che sono, diciamo, le richieste del poste al pubblico americano. Corrado, in conclusione, perché non volevo segnarla, certo. Di là che lei ne sa più degli altri, ha visto il robot. Personalmente adesso, che ha preso tempo per pensarci, la farebbe questa esperienza? Ok, una volta per giocare la fai. Perfetto, ci anche perché, apriamo parentesi, non è un essere umano, prostituzione, eccetera, eccetera, chiusa sì, parentesi. È chiaro. È una macchina, va bene, boom, ci divertiamo, ci sgogliardiamo con gli amici e tanti secondi. Non dimentichiamo che il tubetto delle Pringles con dentro la vagina di silicone è molto venduto e lo usano tutti, come tutta l'oggettistica di simulacri sessuali sono vendutissimi, quindi si tratta di aggiungere qualcosa a quello che è l'oggetto essenziale che sintetizza il sesso. Ti dico, quello che poi è venuto fuori con questo ragazzo, con questo ingegnere, giovane ingegnere, è stato appunto quello. Io vendo questa cosa, cioè tutta la tecnologia che io ho visto applicata in quella fiera, delle mani meccaniche che si muovevano rispondendo ai riflessi. Sì, vabbè, però scusate, adesso ho capito, non mi descrivere la fiera, devo andare sul punto. Paolo, sentiamo Paolo. Paolo, domanda secca, voglio sapere. Sì. Ti accoppieresti con la macchina perfetta? Sia per rapporto con me che con la moglie. Non avresti problemi, ve ne comprereste due e terreste a casa. Sì, anzi, anche perché l'importante è che non abbia la mente, così non pensa e non è la mente, ma non è, tutti i problemi. Ma non ha la mente, sennò è un essere umano. Diciamo che impara, apprende alcuni comportamenti e riesce in qualche maniera a secondarti. Meno impara, meglio è. Giuseppe. Buongiorno. Allora, io non ho nessun interesse, proprio nessun interesse. Mi domando come fa, sono sicuro che quel 50% di americani preferiscono, avrebbero piacere di, hanno mangiato troppi hamburger, bevuta troppa Coca-Cola. Vabbè, lei scusi. E hanno un presidente della testa rossa. Vabbè, perfetto, ha finito con sta cazzata, ha detto la sua. Nadia Busato, buongiorno. Buongiorno. Nadia Busato, ricordo che è una scrittrice, autrice del romanzo Gioca con me, ha pubblicato vari romanzi tipo Obiettivo maschio, 101 bugie da raccontare sull'amore, Se non ti piace dillo, Il sesso al tempo dell'happy hour. Quindi Nadia Busato è, diciamo, un'osservatrice dei fenomeni relazionali. Ora, ti faccio notare, Nadia, che le prime risposte sono state di uomini. Il 50% delle risposte tendevano a sviare da una lettura moralistica. Gli americani lo fanno perché sono stupidi, mangiano gli hamburger, c'hanno il presidente coi capelli tinti, oppure la gente va con le prostitute, quindi se va con le prostitute andrà con il robot. Riportiamola esattamente su un piano concreto. Sei convinta che, come dice Pearson, che da qui al 2050 la società cambierà, perché ciò che maggiormente condiziona la società, che sono le relazioni, saranno facilmente risolte con macchine? Ma non sono solo convinta io, direi che è convinta anche l'Europa, che a marzo ha proprio approvato una prelegislazione sui diritti e i doveri dei robot e include anche i robot per l'intrattenimento privato e il divertimento. E uno dei principi che stabilisce questa carta è proprio che deve essere fatta una campagna di cultura sugli utilizzatori per renderli consapevoli che quella è una macchina e che a un certo punto si può spegnere. Ecco, però vedi Nadia, noi adesso vorrei dare un appiglio ai grandi complottisti. Se il legislatore già ha messo le mani avanti e già sta stabilendo, noi abbiamo fatto una trasmissione giorni fa scherzando sulla proposta della Brambilla, che non scherzava tanto, di cambiare la Costituzione a favore dei diritti degli animali. Ma mentre noi giochiamo qui, giochiamo con Rosatellum, con i cagnolini, con le cose del genere, un legislatore sopra di noi ha già pensato comunque di stabilire quelli che sono i rapporti tra uomini e macchine. La tecnologia sta facendo passi da gigante, già esiste, già l'ho visto, già c'è il robot con il quale tranquillamente tu potresti passarci una serata. La giornalista l'ha fatto, ha fatto l'esperimento e dice che in effetti tutto sommato alla fine meglio un buon robot che un uomo farlocco. Ecco, non ci stiamo preparando a qualcosa che cambierà radicalmente la società? Forse sì, però questi robot arrivano dopo che esiste Pornhub, che raccoglie il 30% dei dati su internet. A parole possiamo essere moralisti, ma un terzo del nostro tempo lo scambiamo lo passiamo a scambiare pornografia in rete, a frequentare siti di pornografia, e queste macchine hanno imparato esattamente da lì. Non è che arriva l'intelligenza artificiale da qualcosa che non esiste e viene programmato in un silenzio di un laboratorio. Diciamo che il database che in qualche maniera poi specializza le macchine è ricchissimo. Ferma un attimo, Barbara, finalmente chiama una donna. Barbara, risposta secca: lo faresti l'amore con la macchina perfetta e avresti problemi che lo facesse anche il tuo partner? Intanto il partner non ce l'ho, comunque sì, lo farei, perché fa fine e non impegna. Voglio dire, vuoi mettere il fatto che non te lo devi sorbire a cena, che la mattina non si sveglia tutto assonnato e così via? Non fa le puzze, queste cose qua, figurati, niente. Esatto, ti risolve un problema a costo zero. Quindi sei convinta che alla fine in realtà cambierebbe radicalmente anche l'assetto sociale? Perché non ci sarebbe più bisogno innanzitutto di affaticarsi tanto per trovare un lavoro, per mantenere una famiglia, perché tanto che bisogno c'hai? Il partner lo trovi comperandolo, dice ti basta il minimo per la manutenzione della macchina. Il tempo libero sarebbe molto più limitato. Che bisogno c'è che vai al cinema, che porti a ballare qualcuno, che vai al ristorante? Ce l'hai dentro casa, staranno tutti fermi in casa, il problema sarà l'upgrade degli accessori probabilmente, cambio degli accessori. Tutta la fase del corteggiamento te la sei risparmiata. Certo. Il figlio, se voglio, me lo faccio da sola, tanto non ho problemi. Ma quello sarà risolto parallelamente al problema, è chiaro. Appunto, per cui alla fine, secondo me è un comportamento estremamente ottimizzante, anzi, se la mettessero sul mercato ci farebbero un favore. Perfetto, mi sembra questa conclusione della nostra ascoltatrice la maniera migliore per terminare la prima parte del programma. Ci sentiamo tra un istante, continuerò con il sondaggio. Fareste l'amore con la macchina perfetta? Avreste problemi se la stessa cosa facesse il vostro partner? A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Se tu avessi a disposizione un robot, dai movimenti e dalle fattezze del tutto simili a quelle umane, con un corpo maschile o femminile perfetto, modellato secondo i canoni di bellezza più affermati, saresti disposto ad avere con lui un rapporto sessuale? Se ad avere un rapporto sessuale con un robot fosse il tuo partner, lo considereresti un tradimento? 800240024, vi riproponiamo il sondaggio che è stato fatto da YouGov agli americani, che hanno risposto che quasi il 50% non avrebbe nessun problema a fare sesso con robot e a scambiare con il partner degli androidi meccanici come compagni di stravaganze sessuali. Giovanni, o Giovanna anzi, buongiorno. Giovanna, buongiorno. Sì alla prima domanda. Sì, anche alla seconda, però con l'ipocrisia dentro, che comunque sarei un po' gelosa. Sarebbe gelosa? Un po', sì. Questo però aumenta ancora di più la forza del fatto che considerare l'androide come un amante a tutti gli effetti ormai l'abbiamo già passato come problema. Se è gelosa vuol dire che lo considera qualcosa di alternativo a un essere umano realmente. No, infatti alla domanda che ha fatto l'altro ascoltatore non sarei capace di prenderlo a calci. Ma guardi, se lo vede l'ascoltatore vuole fare il cinico. Mi creda, la prova più drastica è quella. Dico, ma io prenderei a calci questa pupata? No, mai, avrei paura. Abbiamo noi qualcosa che ci dà immediatamente la sensazione che è facile costruire un rapporto emotivo anche con la macchina. Ma io non trovo strano. Sarebbe. lo sarebbe, sarebbe un oggetto prezioso, qualcosa di che comunque soddisfacente, anzi capace di magari tenere in piedi relazioni appassite. Scusa, le faccio una domanda che farà tremare di ignominia le persone che mi ascoltano. Scusate, ma noi abbiamo rispetto per degli oggetti che definiamo immagini sacre. Il simulacro di immagine sacra, nessuno comunque per rispetto farebbe degli atti ignominosi con una statua che rappresenta un'immagine sacra. Attribuiamo a quello l'immagine sacra, è un pezzo di marmo, di coccio, di legno, però è sacro e non lo tocchiamo. Perché non dovremmo alla stessa maniera attribuire tutte le sensazioni che attribuiamo a un essere umano a un simulacro di uomo che si comporta uguale, identico, ha la stessa pelle, le stesse sensazioni, ti guarda negli occhi. Non ha aspettative. Soprattutto all'aspetto che inquina la nitidezza di un rapporto puramente fisico. Quindi benissimo, risposto Giovanna con molta sincerità. Francesco, la stessa domanda. La stessa domanda. Sì, sono veloce. Guardi, il sesso è un linguaggio degli affetti. Risposta, non voglio psicologi. Non ho affetti. Non ho ciao affetti. Francesco, arrivederci, alla prossima. Allora, questo è, no, non voglio assolutamente letture, non voglio introspezioni, non voglio esperti del bar dello sport. Sì o no? Luciano. Naturalmente la risposta è sì, sì, senza nessun problema, la strada è tracciata, anzi questa trasmissione lei la doveva fare 20 anni fa, sarebbe stata una cosa molto più interessante. Le posso dire una cosa, Luciano? Luciano, io la facevo 20 anni fa, si chiamava Golem, bravo. Era esattamente questo. Il Golem era il primo degli automi, stavo saggiavo la capacità degli esseri umani di cominciare a interagire con l'inorganico. Guardi che avevo una redazione fatta con un sintetizzatore di voce, che era chiamata la voce del Golem, e la gente lo allora prendeva per me. No, si figuri, ma non è mica perché osserviamo. Marco. Perché sicuramente anche le considerazioni che ha fatto poco fa quando ha telefonato l'ascoltatrice erano molto interessanti. Se uno se la prende, una forma di gelosia, è un implicito riconoscimento che c'è qualcosa che va al di là della macchina. È così, è una strada tracciata. Teniamo presente però che il futuro ci riserva una diminuzione dell'interesse per il sesso. Quindi va vista anche in prospettiva. Sì, ha visto che lei è a capacità di elaborazione. Mi scrive una persona, così finirà l'umanità. Io sono convinto che invece ritornerà, e questo a onore di tutti coloro che considerano il sesso un'attività puramente riproduttiva. Ci sarà un'attività riproduttiva finalizzata alla riproduzione, un'attività ludica che sarà totalmente svincolata dalla sacralità, dal senso di dovere, e lo farà per divertimento con le macchine molto meglio. Poi uomini e donne decideranno di fare dei figli, lo faranno nella maniera più veloce possibile, più breve possibile, probabilmente non legata a un atto concreto di penetrativo, e continuerà l'umanità serenamente, tranquillamente. Trova che sia così? Possa essere così? La riproduzione è ancora per 20-30 anni, poi è chiaro che ai nostri posteri sembrerà assurdo che in passato una persona si tenesse nella pancia un esserino e sarà tutto fatto esternamente dall'utero materno. Questo l'ho scritto, mi hanno mandato gli anatemi, dico, vi rendete conto quanto ormai sia fuori da... è una parte dell'evoluzione che ci lasceremo dietro, come le zanne, come la coda, i peli, cioè è una parte evolutiva che dimenticheremo, che le donne siano sottoposte a una regola. Perché le donne avevano una regola e gli uomini sregolati? Perché la donna una volta al mese deve sanguinare. È qualcosa che ancora, diciamo, è una parte negativa della sua evoluzione. Sarà veramente sregolata come gli uomini quando avrà più la regola. E quindi non avrà più assolutamente la necessità di essere il ricettacolo di un essere umano. Gli esseri umani continueranno a nascere, ma avremo delle maniere perfette per farli nascere comunque. Senza bisogno che la donna si porti un pancione e ci siano le mamme pancine per 9 mesi. È un'eresia troppo grossa questa? Che è un'eresia, ma è evidente che chi guarda un po' più in là del proprio naso vede che è una strada tracciata, questa come tante altre. Nadia Busato, cosa ne pensi di questa ultima eresia, come hai visto che oggi è il giorno delle eresie? Se avremo gli amanti sintetici, voi donne finalmente sarete sregolate. Beh, saremo assolutamente sregolate, sperimentatrici, recupereremo un piacere del sesso. Dopodiché internet sta accelerando il crollo dell'istituzione matrimoniale, che è proprio inadeguata. Il matrimonio borghese sta già crollando da sé nel Novecento, con internet e adesso con i robot, direi che gli daremmo il colpo di grazia, ma finalmente. Quindi ci vorrà un luogo istituzionale in cui avverrà comunque la riproduzione. E non è detto che sia il matrimonio, non è detto che ci debba essere la famiglia per forza. Ci sarà qualcos'altro, non so che, guarderemo con curiosità quello che accadrà. Luca, buongiorno. Buongiorno. Risponda prima al sondaggio. rigorosamente, assolutamente, definitivamente no, nemmeno a pagamento. Va bene, ma aggiungo che solamente il pensare ad un evento del genere è da deviati mentali. Da deviati mentali, perché vuol dire che sia una concezione dell'uomo e del suo fine ultimo. Qual è il fine ultimo? Deviato. Sì, Luca, sia calmo. Non questo. Sì, tranquillo, Luca, calmo. Sì, calmo. Okay. I robot li stanno costruendo e stanno funzionando. I robot costruiti fino ad oggi, per lo più, sono stati utilizzati nell'industria. Poi oggi, da quando hanno cominciato, l'uomo ha un'idea di una società futura assolutamente, non so, veramente, per me è deviata, sono deviazioni mentali queste. Vabbè Luca, che devo dire, lei ha la sanità mentale, la vede più lucida di noi, io sto osservando dei dati, non è che faccio il profeta o mi invento delle cose, dico, esisteva prima la fantascienza. Anzi, un filone della fantascienza chiamato cyberpunk, che diceva che a un certo punto uomini e macchine trovavano una sorta di amoroso connubio. Esiste una tecnologia ormai avanzatissima per cui le macchine stanno sempre più somigliando agli uomini, perlomeno nelle funzioni banali dell'interscambio fisico. A Barcellona aprono un bordello con bambole perfette, sbanca, il suo problema è che c'ha troppi clienti. O il mondo sta deviando, o comunque il mondo sta seguendo una deriva che comunque quella non credo che sia arrestabile dicendo siamo tutti pazzi. Probabilmente la follia si chiama umanità che si evolve in quella direzione. Io non mi straccio le vesti, non è che impazzisco, osservo e basta. Sto sentendo le persone, lei è il primo che dice con orrore non lo farei mai. Molti dicono perché no, mi seguo nel ragionamento. Sì, sì, per lei questa è evoluzione. Si va avanti, l'avanti si va, evoluzione. Lei ha letto L'origine della specie di Darwin? Sì, beh, ho letto, sì. Beh, allora ci stiamo evolvendo, nel senso siamo il più possibile adattandoci al nostro ambiente. Il nostro ambiente è cambiato, è mutato. Sì, ma l'ambiente lo stiamo costruendo noi. Beh, certo. Per quello che sono le comodità delle classi dominanti. La sua soluzione qual è, Luca? Cosa accadrà secondo lei? Faccia lei una profezia. Quello che accadrà purtroppo non lo so. E cosa vorrebbe quello lei? Che mi auspico è che questa mentalità cambi radicalmente, che ci si renda sempre più conto della vera oggi della natura dell'uomo, non sappiamo praticamente niente. Ma mi dica allora. Questi sono ragionamenti, purtroppo. Sono progetti dovuti alla mentalità, una mentalità, non so se sia vero o sia. Vabbè Luca, sta facendo filosofia, ho detto questa mattina no filosofia. Non ho ben capito cosa vuol dire, ci sentiamo tra un istante, fermiamoci. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Melog. Se tu avessi a disposizione un robot, dai movimenti e dalle fattezze del tutto simili a quelle umane, con un corpo maschile o femminile perfetto, modellato secondo i canoni di bellezza più affermati, saresti disposto ad avere con lui un rapporto sessuale? Se ad avere un rapporto sessuale con un robot fosse il tuo partner, lo considereresti un tradimento? 800240024, siamo sommersi a telefonate, quindi comunque l'argomento, piaccia o non piaccia, è un argomento sensibile. Comunque l'umanità è pronta a porsi il problema. Se siamo veramente in procinto di fare il grande passo, di costruirci l'uomo artificiale, l'homunculus, il golem, l'uomo che in realtà è come vorremmo noi, ci sostituiamo nell'opera della creazione, quindi ci facciamo uomo e donna come ci piacciono a noi, e per il resto la vita continuerà. Sento soltanto ascoltatori che mi danno secca la loro risposta. Giovanni, come la pensa? Giovanni? Genova? Sì. Giovanni? Sì. Giovanni, allora lo farebbe o non lo farebbe? No, senza se e senza ma. Benissimo. E se il suo partner volesse farlo, lo troverebbe disdicevole, ne sarebbe geloso? Farebbe a meno di me. Lei dice, scegli me o robot. Va bene, chiaro. Monica. Monica è d'accordissimo, sono d'accordissimo per questa cosa, anche perché risolverebbe moltissimo i problemi di coppia. Nel mio caso, dove siamo appunto arrivati in un momento della coppia in cui stiamo insieme per tante ragioni validissime e dove capisco che la sessualità è cambiata per me e per il mio partner, penso che questo consentirebbe noi di continuare una vita felice senza grossi problemi. Ecco, lei ha aggiunto un elemento in più. Salverebbe la vita di coppia, perché la vita di coppia rimarrebbe insieme, si dividono i figli, gli oneri della casa, il lavoro, anche la piacevolezza di stare assieme, solo per l'aspetto diciamo idraulico, sessuale, ognuno avrebbe diciamo nella sua stanza, nel suo armadio, i suoi partner meccanici con cui farlo tranquillamente. Esatto, lo vedrei in questo senso, quindi la vita che abbiamo deciso di seguire insieme continuerebbe senza ipocrisia, perché a questo punto è statisticamente anche confermato che la sessualità può cambiare, la passione cambia, eccetera. Perché stare insieme, diciamo, privandoci dell'aspetto comunque fisico? Quindi questo e non ci sarebbe quel senso, diciamo, di smarrimento in cui sceglie un'altra persona, si vuol fare un'altra vita. Non si vuol fare un'altra vita. Non ci sono complicazioni, diciamo, sentimentali, preoccupazioni per malattie, cose varie, molto praticamente parlando. Grazie. Quindi Monica. Cesare. Soluzione. Cesare, buongiorno. Lei? Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. No, certamente, assolutamente no, ma mai. Io, insomma, da chirurgo trovo un po' comica la situazione, mi credo. Perché scusa, da chirurgo dovrebbe trovarla esaltante? Io l'ascolto sempre molto volentieri, devo dire, perché le trovo molto interessanti le sue cose. E, dico no, lo trovo male perché chiaramente il motivo idraulico che lei molto correttamente diceva è la funzione dell'interesse, il sesso è funzione dell'interesse, caro Nicoletti. Come si fa a provare, soprattutto per noi maschietti che abbiamo bisogno dell'evento idraulico, provare interesse per una macchina? Cioè è talmente al di fuori della mia psicologia. Ma lei, chiaro, se la mia compagna mi dicesse questo, io gli darei dei farmaci a base di aloperidolo, si chiamano deliriolitici, e gli darei: figlia, fatti curare, perché cioè lei darebbe dei farmaci alla sua compagna se trovasse un vibratore nel cassetto alla sua compagna, scusi, darebbe farmaci lo stesso. Anche il vibratore vuol dire che c'è alla base un senso di solitudine esistenziale, che è qualcosa di terrificante. Suo punto di vista, Nadia Busato, un commento a questo ascoltatore. Ma figurati, c'è un diritto al piacere in sé, il sesso è una sperimentazione anche fisica, basta confonderlo con la relazione, scusami, ma anche con grande ipocrisia. No, poi il fatto che sederebbe darebbe dei sedativi alla moglie, come facevano ai tempi del dottor Freud con le donne, diciamo che erano isteriche, capito? Va bene. Marco, avanti. Marco, sono io, sì. Allora, no, non ci andrei, ma per un fatto prettamente ludico, proprio perché a me piace fare l'amore e la cosa che mi piace di più con mia moglie è vederla. Ma anche il robot lo vede, mica non lo vede. Sì, ma il robot è programmato, ma scusi, per fare piacere. Come sua moglie le dice? Se io riesco a far provare piacere a mia moglie, cioè lo scopo. Scusi, di Marco, quanti anni ha lei? 52. Cioè, ma ancora non ha capito che le donne all'80% ci fanno contenti e ce lo raccontano. Invece mia moglie ci chiamo molto, lei è fortunato. Allora, lei è una persona fortunata. Guardi che il robot le direbbe: guarda, sì, finalmente tira fuori il tuo obelisco di carne. Lo direbbe anche il robot, come lo dice sua moglie. Comunque va bene, Massimo, andiamo a Massimo. Massimo. Pronto? Lei lo farebbe o no col robot? No, io no. Sinceramente no, perché come ho detto in regia, le donne ti dicono di no, e è quello il bello di conquistare una donna. Vabbè, scusi, guardi, le macchine vengono programmate sul suo desiderio. Se lei piace il rifiuto, la robotessa le dirà: no, ti prego, non lo voglio, non me lo fare. Sono programmate per questo, fanno esattamente quello che lei desidera, non è che è standard, quello è l'aspetto. Senza sopraffare la volontà di un essere umano, il robot è perfetto. Comunque lei, volendo, Antonio. Nicoletti, le suggerisco, c'è un film di Pozzetto che non ha avuto grande successo e parla proprio di questo argomento, che lui praticamente viene selezionato da un'azienda che fabbrica robot donna e viene selezionato per fargli praticamente la moglie perfetta, e lui praticamente la cambia 3 o 4 volte e poi alla fine credo che la voglia muta. Non so perché l'ho guardato di notte quel film, che non anche Pozzetto c'è un'anticipazione. Antonio, voglio sentire altri ascoltatori. Antonio. No, sì o no? No, assolutamente no, perché anziché risolvere i problemi, per me te ne mette tanti. E quali gliele mette? Che gliele mette? Cambiare le pile ogni tanto? Metterlo in carica? No, ma proprio problemi, perché se magari uno dopo 5-6 anni ritrova una donna, per me avrebbe dei problemi enormi a rapportarsi dopo con una donna. Comunque è una mia idea, può essere anche sbagliata. Posso concludere con una battuta? Sì. Alla decima volta che ci vai, cosa chiami? L'autospurghi per rimettere a posto i robottini? Scusi, ci sarà un sistema comunque di autopulizia, ma è chiaro, non paghi l'autospurghi. Ma forse ci faranno il business, ci saranno i pulitori dei robot. Ma no, ma sia tranquillo che le macchine non hanno questo problema, è il minore dei problemi. Non lo so, guardi, è arrivato l'idrante. Vabbè, Francesco, dai, Francesco, fidiamo con Francesco. Ciao Nicoletti. Sì o no? Dal punto di vista ormonale no, ma per scaricare pulsioni magari perverse forse sì. Vabbè, applicherebbe sulle sue fantasie. Comunque, concordo con Nadia Busato per quello che ha detto, concordo anche con la parte degli ascoltatori che ha detto che è pronta, e ho notato che le donne sono molto più avanti degli uomini. Tutte le ascoltatrici hanno detto perché no, finalmente ci risolve un sacco di problemi, e gli uomini sono trincerati dietro quella sorta di illusione della natura, addirittura per dire che ci vuole l'autospurgo, per non dire che lui non lo farebbe mai con una macchina, perché vuole la risposta fisica della persona e gli piace essere illuso. Alla prossima!